salve a tutti cari amici e benvenuti alla 15ª puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Anche oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, il vostro speaker vagabondo Fumino vi dà il benvenuto e continuiamo a parlare del famosissimo ormai viaggio a Roma che mi ha lasciato un po' di perplessità. Allora, se non ricordo male, la settimana scorsa vi ho accennato alcune cose belle, alcune cose un po' meno belle di Roma. Continuiamo, mi auguro di non ripetermi nel mio racconto e cercherò di non farlo. Continuiamo, allora, un aspetto che non mi piace delle persone che ho capito in questo viaggio è stato proprio durante il viaggio. Alla fine sono sceso a Roma utilizzando il treno e cosa è successo? Ad un certo punto, non mi ricordo in quale stazione, sono salita una comitiva di persone, una comitiva di famiglie alla fine, dove c'erano minimo 5-6 bambini fra un'età compresa diciamo fra i 6 e i 12 anni, quindi bambini nel pieno della vita e della vitalità con i rispettivi genitori. Bene, una cosa che effettivamente notavo è come i bambini fossero estremamente educati, silenziosi, non li sentivamo mai. I genitori, al contrario, facevano una caciara, un casino, roba da rincoglionire. E beh, sei su un treno, chiaramente c'è libertà di fare tutto, no? Però sei su un treno, il treno è affollato, ci sono tante persone e a nessuno interessa sapere i tuoi spostamenti del giorno, o se vorrai andare a Piazza Navona piuttosto che a Trinità dei Monti o che ne so, cioè non interessa veramente a nessuno, anzi conoscendo, cioè avendo visto che persone erano, forse interessava, ho pensato per evitare i posti quelli, cioè a un certo punto dicevano sì si va a mangiare in quella via Laura, ma come ricordo che via era, beh io ho pensato cercherò di stare lontano da quella strada nell'ora di pranzo. Beh, quindi le persone che stanno in luoghi pubblici che non hanno alla fine una sensibilità di comprendere che quello appunto è un luogo pubblico e quindi sapere o comunque urlare, alzare la voce, voler per forza far sentire agli altri il niente, che poi è il niente, perché se uno lo fa che c'ha qualcosa da dire è un conto, se uno lo fa perché ha da far passare un messaggio ad altre persone è un altro conto e mi può stare anche bene, anzi se quello, se una persona alza la voce appositamente per far capire qualcosa a qualcuno è preferibile essere lì a capirla, ma quelli che ti alzano, ti berciano, ti urlano parlando del niente più assoluto sono estremamente fastidiosi. Sono partito da questo perché era nel viaggio e scendendo, continuando a Roma, torniamo alla bellezza, Villa Borghese. Addirittura un sabato mattina a Villa Borghese ho trovato casualmente un concerto di musica classica, pianoforte e voce. Sono andato perché avevo letto di questo concerto tramite internet. È stata un'esperienza magnifica. Allora, la bellezza di Villa Borghese, il museo canonica nello specifico, perché chiaramente a Villa Borghese è tanto grande, ci sono tante cose, e questo concerto era in una stanza del museo canonica, era addirittura gratuito e c'erano veramente tante persone. E lì è la bellezza di Roma, la bellezza della città, che ti offre anche in un momento della giornata, come il sabato mattina alle 11.30, se non ricordo male, un concerto di musica classica, roba che per me, che vengo da un paesino, anche se a qualcuno di questo paesino piace molto fare il cittadino e si sono dimenticati le origini vere del nostro popolo, della nostra gente, andare in città, dicevamo, e trovarsi alle 11 di sabato mattina un concerto classico è una cosa favolosa. Poi in uno scenario come quello ancora di più, ancora amplificato, un parco immenso, bellissimo. Poi dentro Villa Borghese ci sono tanti musei e questo museo canonica, di cui ho visto poco perché chiaramente era un evento gratuito, quindi siamo entrati, ci hanno dato un biglietto pass per questo evento, ci hanno detto dove andare, era una stanza del museo e lì siamo stati tutto il tempo, non ci era consentito girare dentro al museo, ma vi garantisco che solo quella stanza lì valeva la pena, cioè era una cosa bellissima, c'erano dentro sculture canoniche, è stato, poi ho scoperto, mi sono informato, è stato uno scultore e musicista romano che appunto risiedeva in questa casa che ora è diventato la casa museo Pietro Canonica, Pietro se non mi ricordo male. Bene, fra il pubblico di questo concerto c'era una persona che, ahimè, la sfortuna della vita per quanto riguarda lei, da un certo punto di vista, diciamo, sfortuna perché comunque rende le cose difficili, ci mancherebbe altro, non per altri motivi, è arrivata una persona che aveva una figlia che aveva un ritardo e questa figlia ogni tanto lanciava degli urli. Praticamente la prima volta che l'ho sentito urlare, chiaramente senti un urlo, non sai per quale motivo sia e ti volti, ho visto la situazione, ok, perfetto. E lì ho pensato, auguriamoci che questa persona non infastidisca il pianista, perché chiaramente come funziona? Il concerto di musica classica non è come andare a vedere un concerto dei Pooh o di Ligabue o di Bruce Springsteen, dove ci sono migliaia, decine di migliaia di persone, un casino esagerato e quelli fanno più casino della gente. No, un concerto di musica classica è un altro contesto, molto più intimo, è una cosa molto più difficile anche da portare avanti, e quindi mi auguravo che al pianista questo non disturbasse, perché effettivamente l'urlo saltuario che ogni tanto sentivamo anche durante il concerto poteva effettivamente distrarre il pianista o la cantante. Fatto sta, fortunatamente il pianista non si è fatto assolutamente influenzare da questa cosa e ha suonato benissimo, quindi ben per lui che è stato molto bravo, tra l'altro un pianista molto giovane, e ben per noi che eravamo ad ascoltare e ne abbiamo assolutamente goduto. C'era però davanti a me una signora di queste tutte imbellettate, pellicciotto, cappello di pelliccia, che ogni volta che questa povera ragazza, e chiaramente mica lo faceva apposta, piccolina, d'altra parte che ci vuoi fa, lanciava uno di questi urli, questa si girava e guardava la mamma come a dirgli portala via. Allora io lì ho pensato, dove sta il confine fra l'essere in un ambiente pubblico e quindi usufruire della bellezza, perché alla fine è molto bello che tutti usufruiscano di questa bellezza, dove sta quindi il confine fra la sopportazione, il saper gestire determinate cose anche da parte di tutte le altre persone, dove sta il confine di una persona di portare persone che hanno problemi in un ambiente dove questa cosa potrebbe creare un problema, e quindi, come dire, questa cosa mi ha veramente colpito, perché questa signora tutte le volte che questa ragazza faceva questo urlo si girava proprio in malo modo, e questo io l'ho proprio percepito, e questa cosa mi è molto dispiaciuta, perché alla fine quella lì, come me, come tutti gli altri che erano lì, godiamo di una fortuna almeno al momento che è inestimabile, vale a dire la salute, la sanità mentale, tutto quanto. Purtroppo ci sono persone che non ne godono, però non è che a queste persone c'è da negargli il diritto o comunque il piacere anche di ascoltarsi della musica o anche in un ambiente. Chiaramente se un caso è molto limite e tutto quanto, sta anche all'intelligenza degli accompagnatori, ma se effettivamente questa persona è stata accompagnata lì e effettivamente si cacciava questo urlo ogni tanto, ma poteva tranquillamente essere sopportato senza nessun tipo di problema, non vedo perché, se ad esempio il pianista non si è fermato dicendo scusatemi ho sbagliato, ma anche senza fare riferimento, però poteva succedere, ma perché deve essere una persona X a farlo, a intimare con lo sguardo, e chiaramente lo stava facendo ad un'altra persona di andarsene. Bene, questo sinceramente mi è dispiaciuto, è stato un altro degli aspetti, diciamo, che mi ha fatto pensare. Un'altra cosa che mi ha fatto pensare molto all'interno di Roma, anche il contrasto bellezza e non la chiamerei bruttezza, ma comunque una cosa che secondo me un po' stonava, in tanti angoli del centro storico di Roma, quindi angoli scorci bellissimi, strade fantastiche, palazzi immensi, piazze, monumenti in giro, e quanto di più bello si può effettivamente vedere in una città. Allora, cosa è successo? C'era molto molto possente, molto molto penetrante la presenza dei militari. Ho visto gli alpini, ho visto l'esercito, a parte chiaramente carabinieri, polizie, guardie di finanza, a perdita d'occhio. C'è stato un momento attraversando Piazza Navona in cui ho commentato: ci sono più militari che persone in giro a passeggiare. Chiaramente era molto freddo, quindi questi poveri cristi che erano qui lì a fare il loro lavoro, niente da dire, dovevano stare all'interno dei mezzi, motore acceso per, chiaramente per riscaldarsi un po', insomma, tante cose che non me l'hanno fatta vedere molto bene, nel senso, sì, la sicurezza e tutto quanto, il rischio che ci può essere al giorno d'oggi, tante cose, però in effetti stonava molto vedersi girare un angolo per entrare ad esempio in Piazza Navona e c'era sempre la camionetta dell'esercito con gli alpini mitra spianato in mano. E io sempre penso in questi casi, come dire, auguriamoci che a nessuno di questi gli prenda mai il bischero, che alzano in mitra e iniziano a sparare a caso così, perché magari gli prende il matto. Perché in effetti, camminare tranquillo, sereno, in una città, senza pensieri e tutto quanto, e vedersi un militare, chiaramente, uno pensa, c'è qui perché fa il suo dovere, fa il nostro bene, ci mancherebbe altro, ma e questo è fuori dubbio. Però, stona un po', sinceramente stona un po'. Uscire dalla chiesa di San Luigi di Francia, tra l'altro, anche lì, la bellezza di Roma, qualsiasi cosa uno pensi riguardo la religione, a Roma, come dice una mia amica, entri in una chiesa qualsiasi a caso e ti trovi di fronte alla bellezza. E in effetti questo io l'ho scoperto, perché girellando sono entrato in un paio di chiese. Ecco, questa di San Luigi di Francia, ci sono dentro ben 3 quadri di Caravaggio, e uno entra in chiesa e si ritrova 3 opere del Caravaggio e stai lì a guardare. Io a un certo punto, guardandone una, ho anche pensato che è un ritratto di San Luigi quando era re, mi sembra, e ho anche pensato, certo, di fronte ad una cosa del genere, un ritratto così, che effettivamente lo guardavo e sembrava quasi che questo San Luigi uscisse dal quadro per venire incontro alla gente. Ho iniziato a capire anche perché qualcuno soffre della sindrome di Stendhal, perché in effetti tanta roba, cioè così da 0 a 0. Per non parlare poi di un'altra chiesa che ora non mi ricordo, è in Vaticano, ma non mi ricordo il nome della chiesa. Comunque, se qualcuno la conosce, vi do un indizio: quella dove c'è la Scala Santa, mi sembra quella, oppure un'altra chiesa ancora. Ora sto facendo un po' di confusione con la memoria, però tipo il soffitto completamente d'oro, di roba d'oro. Cioè dici, cavolo, ma qui se casca una di queste cose, uno scappa a corsa, se non lo sparano prima, si fa ricco. E vabbè, e in effetti però Roma, le chiese di Roma, indipendentemente da il credere o il non credere, dallo sfarzo e tutto quanto, e tutto quello che io, ognuno giudichi lui, non per me è assolutamente uguale, però al di là di questo, in ogni chiesa di Roma, perlomeno quelle viste da me, c'è veramente da godere della bellezza che ti si presenta davanti agli occhi. Bene, cari amici, anche questa 15ª puntata di Vagabondo in giro per il mondo termina qua. Io vi saluto, quindi vi do appuntamento a mercoledì prossimo, come sempre, sulle frequenze di Radio Big World, e il consiglio anche per questa settimana è sempre lo stesso: siate saggi!